Allora, benvenute, il terzo incontro, siamo sempre più gasati e questa sera abbiamo già tutti letto il titolo e sappiamo più o meno tutti di cosa ci parlerà Giovanni, il nostro ospite di oggi, ma in verità non lo sappiamo e quindi direi ci buttiamo subito in questa rassegna altissima col nostro ospite Giovanni Liva, grazie alle domande di Laura Canella, che è sempre fortissima, e io mi eclisso di nuovo fino alla fine, come sempre. Ciao. Allora Giovanni, ti direi appunto forse di iniziare presentandoti, quindi raccontando un po' la tua storia. Giovanni appunto è un appassionato di montagna, abbiamo già fatto il primo incontro con Enrico, che è qui presente in sala, che anche lui appunto è un appassionato di montagna e ci ha raccontato, come farà anche Giovanni stasera, una testimonianza che speriamo possa essere utile per dare un po' l'idea di cosa significa stare in montagna e camminare, arrampicare, vivere la montagna in questo senso. Ma Giovanni non è, cioè nella vita fa anche altro, quindi ti direi anche di presentare chi sei, un po' tutta la tua storia. Bene, allora grazie a Laura per l'invito, grazie a voi che siete qua, mi fa molto piacere essere qui. E appunto Laura mi ha chiesto di parlare della mia vita da alpinista, quindi potrei annoiarvi e essere ripetitivo o autocentrato, però vabbè, quindi farò una breve storia un po' da bambino alla ormai età avanzata, da pensionato, e poi abbiamo preparato con Laura una serie di domande. Spero che le immagini siano belle e che il tutto vi appassioni, insomma, poi magari facciamo qualche domanda, certo, dopo, certo, tra loro, ecco. E vabbè, molti di voi mi conoscono bene, e quindi dirò semplicemente che sono un pensionato. Ho fatto per 40 anni l'archivista storico, con molto piacere, molto gusto, lavoro bellissimo, e adesso da pensionato comunque continuo ad andare in montagna almeno una volta alla settimana, tempo permettendo, con un paio di gruppi di pensionati con cui mi relaziono, e poi un paio di volte all'anno faccio dei trek un po' più lunghi, impegnativi, aiutati, come dirò più avanti, cioè con zaino trasportato, perché non ho più l'età per portare zaini da 10-15 kg. Ecco, venendo all'inizio, e quindi già vedete lì delle foto da bambino, i miei genitori, in agosto, siamo negli anni, alla fine degli anni 50, io sono del 54, quindi a seconda metà degli anni 50, i miei genitori affittavano una casa a Primolo. Primolo è un paesino sopra Chiesa Valmalenco, magari molti di voi conoscono, insomma, provincia di Sondrio, e quindi lì ho cominciato a mi ricordo che a 4-5 anni mia mamma mi portava nelle malghe a mangiare la panna piuttosto che la polenta, eccetera eccetera, o andavo con mio padre a funghi, quindi piccole passeggiatine da bambino. Ce n'è una, ecco, qui ho riconosciuto, torno indietro là, ecco, qui ho riconosciuto il rifugio Porro, che qualcuno forse conoscerete, che è sopra Chiareggio, ed è rimasto, cioè naturalmente è migliorato, gli avranno rifatto il tetto, ma la forma è uguale. Quindi questo è assolutamente il rifugio Porro sopra Chiareggio, e quella è mia madre. E i miei fratelli, che sono tutti più grandi, io sono staccato, figlio dell'Ogino Knaus, quindi mio fratello più vicino aveva 7 anni più di me, le mie sorelle ancora più grandi, andavano a camminare con mio padre, mentre io facevo queste gite da bambino, e quindi anche compresi i ghiacciai della zona, lo Scalino, il Bernina e così via. E quindi poi sono montagne e luoghi e camminate che io poi ho riscoperto da adulto, nel senso che appunto sono tornato tanti anni in questo paesino, che adesso è diventato ovviamente 50 volte tanto, allora era un paesino piccolissimo, e niente, quindi ho riassaporato il piacere di fare delle camminate o dei ghiacciai che mio padre e i miei fratelli hanno fatto. Poi sul Bernina poi vi racconterò un aneddoto, ma più avanti. Ecco, invece dalla fine degli anni 50, quindi dal 1960, non saprei dire per che motivi, i miei genitori che tra l'altro si erano conosciuti in Dolomiti, i miei genitori, quindi hanno avuto questa cosa di dire torniamo in Dolomiti. E quindi siamo andati in Val di Fassa, dove anche lì si pindava la casa per un mese in affitto. Siamo nelle Dolomiti orientali, come saprete, e devo dirvi che c'era un turismo ancora, non dico agli esordi, però insomma ancora un po' lontano dall'immaginario che abbiamo oggi, no? Se adesso si va in agosto in Val di Fassa non si riesce ad andare nei passi, ci sono 2 ore di coda di macchine. Ecco, allora siamo molto agli inizi. Vi basti dire che l'autostrada del Brennero venne aperta alla fine degli anni 60, quindi allora per andare in Val di Fassa era un viaggio, quindi immaginatevi la 1100, la macchina dell'italiano del boom degli anni 60, carica fino all'inverosimile, bagagli, 4 figli e genitori, quindi io in braccio a mia mamma davanti nel posto a destra accanto al guidatore, si faceva la Gardesana, quindi fino a Brescia l'autostrada, poi la Gardesana, le strade provinciali, eccetera, quindi era un viaggio lunghissimo. E altra cosa curiosa era che appunto le case allora le affittavano molto scarne, non c'erano lenzuola, non c'erano, beh, le lenzuola in realtà si portano anche oggi se avete una casa, insomma, non c'erano coperte, non c'erano stoviglie, quindi si spedì, era uso spedire, magari Enrico lo sa, lo faceva anche la sua famiglia, spedire in un baule, vi ricordate quei vecchi bauli verdi con le fibbie d'oro, color oro, che si spedivano 20 giorni prima per poter, poi quando si arrivava nella casa, trovare sto baule pieno di cose. Vabbè. Ecco, in Val di Fassa ho cominciato a percorrere, naturalmente in base all'età, sentieri via via sempre più facili, prima facili, poi sempre più difficili, crescendo ovviamente. A 14 anni, e c'è una foto, questa, bravissima Laura, lì sono io a 14 anni, davanti alla ferrata tridentina che Maria ha fatto, che aveva questo doppio pregio, che era 10 minuti di avvicinamento dalla macchina, quindi molto comoda così, molto ben ferrata, però insomma direi impegno medio. Ecco. E quindi ho cominciato a fare un po' di ferrate, aiutato diciamo, sulle orme di mio fratello, che appunto aveva 7 anni di più, quindi anche lui era più avvezzo, le aveva già fatte, ha cominciato a portarmi, ecco. Dopodiché, verso i 19 anni, ho cominciato a fare qualche arrampicata facile, perché devo dirvi che il passo tra una ferrata e un'arrampicata facile è molto breve, nel senso che ci sono molte cose logistiche simili, quindi l'esposizione, la tecnica di progressione, l'uso ovviamente di mani e piedi, l'equilibrio del corpo e così via. Ecco, cambia ovviamente l'approccio mentale, nel senso che sulla ferrata sei tu col tuo cordino, il moschettone, anche qui parentesi, quando ho iniziato a fare le ferrate esisteva il cordino che si girava intorno alla vita e il moschettone. L'imbragatura è stata inventata anni dopo, poi abbiamo avuto l'imbragatura quella doppia, cioè con le bretelle sopra la parte superiore del corpo, e poi invece l'imbragatura solo sul bacino, che credo esista ancora oggi come la più considerata la più sicura, diciamo così, no? Ecco. E mentre ovviamente nell'arrampicata si è legato a un'altra persona che è in mano di fatto la tua vita, no? Però ecco, la tecnica di progressione, l'esposizione, l'ambiente, eccetera, eccetera, è molto simile. Infatti, per avvalorare questo che sto dicendo, tutto nacque per la prima mia arrampicata sulle Torri del Sella, sopra il Pazzo Sella, con un amico di Roma con cui dovevamo andare a fare le mesule, che è una ferrata sul gruppo del Sella, abbastanza impegnativa, e lui mi disse: ma senti, siamo già andati 6 volte a fare le mesule, perché non andiamo a fare un'arrampicata? Lui era più bravo, faceva da primo, e quindi abbiamo fatto questa cosa sulle Torri del Sella. Ecco, poi sempre a cavallo degli anni, dei 20 anni, adesso non mi ricordo più o meno, 20, 21, 22, così, ho fatto la scuola di roccia dei Ragni di Lecco, e quindi da lì ho, come dire, è stata un'esperienza bellissima, importante, ma soprattutto ho perfezionato tutte le tecniche di uso dei nodi, la sicurezza, l'uso dei materiali e così via. Ecco. E quindi ho cominciato a fare un po' di arrampicate, soprattutto nelle Dolomiti orientali, qualche volta nelle Dolomiti occidentali e ovviamente in Grigna, il posto più vicino a Milano. Poi da un po' di anni mi dedico anche mi piace molto andare con le ciaspole, perché mi sembra che ti diano una grossa potenzialità e piacere, però non abbiano la pericolosità dello sci alpinismo, eccetera, eccetera. Ovviamente sta a noi non ficcarsi in situazioni pericolo valanghe. Ecco, poi ho cominciato a fare dei trek da rifugio a rifugio, non solo in Dolomiti, e devo dirvi che appunto il disagio e la fatica di portare lo zaino pesante e magari di dormire in rifugi, come dire, con bagni non proprio super accoglienti, con cibo un po' così così, con situazioni eccetera eccetera, però il grande piacere di vedere, no? Ieri eravamo lì e domani andremo là, cioè della progressione giornaliera da un posto all'altro, è veramente un'esperienza straordinaria che vi auguro di fare, anzi l'avrete fatta sicuramente. E quindi adesso, senza fare l'elenco della spesa, però insomma, dal Sentiero Roma, la Corsica, il GR20, piuttosto che il Giro dell'Adamello, le Calanque, eccetera eccetera, e ho fatto un po' di questi trekking. Poi, appunto, come dicevo all'inizio, con l'età e con la fatica di portarsi sulla schiena uno zaino pesante, ho cominciato a fare quelli invece cosiddetti con bagaglio trasportato, per cui anche lunghi, magari 20 e più chilometri al giorno, con dislivello, no? Però col bagaglio trasportato, camminando col bagaglio leggero, quindi in effetti è molto aiutato. E questi, gente, sono stato in vari posti, non solo in Italia, magari non tutti proprio in montagna, però con sempre questo piacere della scoperta di posti nuovi, eccetera. Allora, per esempio, questa è l'Islanda, queste foto che sta facendo vedere Laura, che è un posto straordinario, se non ci andate ve lo consiglio vivamente. Tenete conto che il 90% dei turisti che vanno in Islanda fanno il periplo, il mezzo periplo, diciamo, guardando da Reykjavik a oriente e a nord. Bellissimo, indimenticabile, cascate, geyser, camminate, ghiacci, eccetera eccetera. Però se riuscite ad andare con amici o con un gruppo, con un 4x4, per cui si può dal nord tagliare in diagonale verso Reykjavik, allora si attraversa tutto l'interno, ha delle cose straordinarie, veramente inimmaginabili, iceberg di tutti i colori, non so se se ne è vista una prima, di montagnette tutte colorate. Vai avanti. Questo è un fiume che entra nel mare e si porta dietro iceberg di tutti i colori e di tutte le dimensioni, come vedete. Questo è il vulcano che era, no, scusa, vai prima. Questo era il vulcano che aveva eruttato, diciamo, una dozzina d'anni fa. Quindi c'era una foto prima che si vedeva la neve, la lava nera e la pietra rossa, perché essendo roccia di ferrosa, quindi rossa. Ecco. E poi c'è questo posto straordinario che mi dicono, io non sono stato, assomiglia molto al Perù, dove appunto ci sono montagnette, vedete, di vari colori, perché c'è la montagnette gialle, perché lì è ferro, materiale di ferro tipo limonite, un po' tipo l'Elba, no? In più grande naturalmente. Poi verdine, malachite, azzurrine, eccetera. Poi c'è le matite, insomma è un posto bellissimo che vi consiglio. E ecco, un altro trek che mi è piaciuto tantissimo, sempre con questa cosa di fare base in un paesino, è l'Islanda, scusatemi, la Patagonia. In realtà volevo parlare dopo, ma va benissimo, ci sono le foto qua, perfetto. La Patagonia, anche qui sono emozioni grandissime. Tra l'altro, io ho avuto una fortuna bestiale. Scusa un attimo, una fortuna bestiale di avere un tempo quasi sempre meraviglioso. Se torni a quella prima, no, c'è la montagna. Scusami, no, avanti un po'. Avanti. Ecco, questo è il Cerro Torre. E io ho avuto questa fortuna di arrivare a un passo a 2000 metri dove davanti c'è un serratore libero, perché è sempre, quasi sempre coperto. E c'è questa emozione particolare che praticamente, complice la latitudine, noi siamo, non dico in pianura, ma a poche centinaia di metri di altezza, il paesino di El Chalten, forse avete visto qualche documentario così, che è la base per andare a fare i trekking nella Patagonia argentina, è a 400 metri, come se fossimo a Ballabio, neanche a Ballabio, più bassi di Ballabio. Però intorno ci sono montagne così, questo è il Fitzroy, e questo è sempre il Fitzroy, che è enorme. Questo è un lago straordinario, proprio ai piedi, ecco. del Fitzroy. Quindi l'Islanda è un altro trek che ovviamente costa, per cui bisogna mettervi un po' di soldi, però è notevole. Oh, questa è una roba un po' turistica, però che insomma sei già lì e vai a vedere. Questo è il famoso Perito Moreno, che è un ghiacciaio enorme che sbuca nel mare, in un grande lago. Vabbè. Vedete un po' le dimensioni e naturalmente, purtroppo per il cambiamento climatico si scioglie perennemente. C'era un video che però non si riesce a vedere, in cui praticamente si vede questo iceberg blu che cade nell'acqua e vabbè. Ecco, e poi vabbè, altri posti bellissimi, per esempio le Canarie, che sto man mano scoprendo in questi anni, che hanno pur costruite nei paesini molto costruiti e molto turistici le cittadine, però poi lasciata la cittadina si trovano posti veramente fuori dal mondo. Ecco, e vi ho detto già che faccio una più o meno delle camminate con arzilli pensionati, direi che mi fermo qua. Queste sono le Calanche. Anche questo è un posto magnifico. Maria conosce il mio compagno di camminate, Gian Vittorio. Lui la racconta come se avesse fatto il K2. Tutto proporzionato. Però c'è da dire che effettivamente le condizioni climatiche di solito si facevano in aprile, ponte del 25 aprile, del 1 maggio. Così. Però qui, come vedete, c'è un vento bestiale. E si dormiva due notti in tenda, quindi comunque dovevi portarti lo zaino con un pezzo di tenda e magari anche un fornelletto e un pettolino per farti giusto una minestrina piuttosto che un tè caldo, eccetera, eccetera. Ecco. E il pregio delle Calanche è che, immaginatevi, qualcuno di voi c'è stato? Praticamente Marsiglia è come se fosse al centro di un semicerchio, quindi facendo base a Marsiglia puoi fare o tutte le scogliere in qualche giorno, diciamo così, in questo semicerchio. Oppure se uno dice no, non voglio dormire fuori, voglio farmi gite giornaliere, fa capo a Marsiglia, è come se facesse dei raggi, diciamo così, di questo semicerchio per giungere alla scogliera, poi fa un pezzo di scogliera e rientra ad un altro raggio. Ecco, di questo è molto bello, è molto particolare. No, allora, adesso veniamo ai materiali. Sì, sì, cioè... Ne hai già un po' parlato, quindi puoi decidere tu su cosa soffermarti, sì. Però come avrete visto, e se appunto siete montanari anche voi, i materiali, le tecniche di andare in montagna nel tempo sono cambiate e quindi nell'ottica di avere questo podcast in cui cerchiamo di dare una... come dire, consapevolezza anche di cosa significa andare in montagna anche da un punto di vista concreto, quale esempio migliore di una persona che appunto ha visto il cambiamento anche proprio del per età di come si va in montagna e quali sono anche gli strumenti, anche i materiali, insomma, diciamo, che un tempo e oggi sono cambiati nell'andare in montagna. Ecco, allora, quando io ho cominciato ad andare in montagna si usavano questi scarponi che avevano, in realtà c'erano solo due marche, oggi ce ne sono 100 di me, la Dolomite e Brixia, che io ricordi, di cuoio, durissimi, pesantissimi, che avevano un pregio. Il pregio era che tenevano l'acqua, anche se stavi 10 ore nella neve, non ti bagnavi. Non tenevano tanto il caldo, infatti bisognava mettere due calzettoni. La cosa curiosa era che all'inizio, appena comprati, bisognava cospargerli di grasso per renderli un po' più morbidi o al limite martellate sia fuori che dentro per renderli un po' più morbidi. E vabbè, e naturalmente i primi anni con arrampicato si usavano questi, quindi la tecnica era l'appiglietto sottile di pochi centimetri, diciamo così, tu mettevi lo scarpone sull'appiglietto e ti teneva in quanto suola rigida Vibram, no? Okay. E pochi anni dopo, cioè pochi anni, a un certo punto, però non sono riuscito... navigato su internet ma non sono riuscito a trovarla, colpa mia, questi scarponi, forse Enrico se li ricorda, sono stati sostituiti da altri scarponi sempre col vibra nella suola rigida, con una lamina o di alluminio o di legno, però scamosciati blu o rossi, quindi il pregio di questi qui era che pesavano 1,5 kg ogni scarpone, quelli li pesavano 7, 8, 9, 10, etti così, e vabbè, però sono durati poco, 2 o 3 anni. Poi sono state inventate le scarpette. Prima le scarpette alte, quindi col caucciù sotto ma alte, cioè coprenti il malleolo, e poi le famose scarpette basse che usate voi giovani. E quindi diciamo che con l'invenzione delle scarpette il grado di arrampicata si è alzato tantissimo, nel senso che uno mediocre diventava un po' più bravo, uno più bravo diventava molto bravo, uno bravissimo diventava straordinariamente bravo, proprio perché le scarpette hanno alzato di almeno uno di due o due gradi la capacità di salita in scalata. Ecco, questo per quanto riguarda le scarpe. Dell'imbragatura l'ho già detto prima. Vabbè, delle cose. Parlare di questa foto? Scusa? Anche sì, se non è. Sì, finisco una roba sui materiali, poi parliamo di quella foto di carina. Ecco, diciamo che non essendo particolarmente muscoloso, io ho fatto tante vie di arrampicata, quasi sempre da secondo. Ho fatto qualche via da primo, ma dopo averla fatta da secondo. E avevo due compagni di cordata molto più bravi, cioè molto più bravi di me, con cui facciamo questo terzetto con cui abbiamo arrampicato, non so, 20-30 anni insieme. E quindi ci piaceva di più fare vie magari molto più lunghe, però non di gradi elevatissimi, no? Mentre mi viene da dire che, per esempio, la scuola di roccia che avevo fatto a Lecco, molto graduale, per cui il primo giorno i nodi, il secondo giorno le sicurezze, il terzo giorno la corda doppia, il quarto giorno, l'ultimo giorno come premio ti portavano su una via di terzo grado, che insomma tutto sommato per i gradi è abbastanza facile, no? Mentre mi dice mio ultimo pronipote, che ha 15 anni, che adesso alle scuole di roccia già il secondo giorno ti portano a fare forse passaggi anche di quinto, di sesto e così via, quindi proprio si è proprio modificato l'approccio, no? E ovviamente è importantissimo questo legame che si crea nella cordata, perché come immaginate uno ha in mano la vita dell'altro e viceversa, e quindi è un legame fortissimo, no? Per cui insomma io sono sempre andato ad arrampicare con amici. Dopo vi racconto un aneddoto, invece no, ma insomma così sempre vi andate con amici, con questi due o con altri, ma con amici molto cari. E quindi si crea un legame affettivo, esistenziale, umano, anche politico, perché eravamo tutti più o meno nei gruppi extraparlamentari degli anni 70 insieme. Allora, dei gradi ve l'ho detto. Ecco, ancora una cosa, poi prendiamo la foto. Delle tue domande che ci eravamo scambiati, mi hai chiesto se vai da solo. Allora, andare da solo è bello, devo dirvi, dà delle emozioni particolari, però e qualche volta se mia moglie e i miei amici non possono andare in montagna e c'è il sole, io friggo, mi viene il cattivo umore se sto a casa e quindi vado. Però devo dire onestamente che vado in situazioni che conosco già, raramente vado in un posto nuovo, perché non so gli imprevisti, i tempi, le difficoltà, quindi rifaccio... che ne so, il Monte San Primo, la Gregna, Rosegone, che ho fatto 100 volte, dove però mi muovo perfettamente, se viene brutto so dove andare, cioè so come dire, no? Ma scusami, non so se poi ne parlerai dopo, sì. Ma appunto in questo senso, quando ne avevamo parlato insieme, c'è un tema sulla questione, diciamo, dell'andare da soli, o invece di, appunto, come anche dicevi prima, quando uno arrampica crea appunto un legame, sì, anche affettivo, di amicizia, eccetera, quindi... c'è un senso di comunità, no? Quindi sì, diciamo sì. L'andare in montagna in qualche modo può essere sia un piacere, come giustamente dicevi. Sicuramente, adesso. No, dopo ne parliamo nella quella domanda lì sul piacere della montagna. No, scusa, volevo finire un attimo il filo sul da soli, no? Per cui ovviamente da una parte può essere affascinante, necessita naturalmente di essere super attento, super concentrato, avere appunto conoscenza dei luoghi, prudenza e tenendo conto ovviamente che non sempre il cellulare prende, no? Sarete andati sicuramente in posti dove o non c'è campo o il vostro come si dice, il vostro venditore di come si nomina la parola, il provider. Il vostro provider è più debole e quindi non prende, mentre il provider prende. Ok, ecco. Ma sì, possiamo anche saltare subito su questa cosa, non è che dobbiamo... No, diciamo che poi noi parliamo sempre di esperienze belle, appunto di, cioè, del piacere della montagna, allo stesso tempo c'è una parte, non per creare diciamo paura degli spettatori e ascoltatori, però c'è una parte anche invece di pericolo della montagna che... come dire, non sempre viene preso in considerazione, forse finché non ti ritrovi in quella situazione non ti rendi conto. Certo. Io ho avuto un'esperienza con Maria, con Maria, che siamo perse con altri gruppi, cioè eravamo in un gruppone di amici, ma ci siamo perse, abbiamo fatto credo tipo 9 ore di discesa in cui io ho pensato, cioè, ho avuto una crisi... No, di pianto. Poi ho comunque camminato, piangevo camminando in silenzio. Però è un po' una situazione in cui sai, non prende il telefono, non puoi avvisare nessuno, nessuno certo. può venirti a soccorrere. A quel punto, come dire, o muori in montagna o trovi la forza di andare avanti. Però è una cosa non... Noi siamo andati avanti. Certo. La condizione d'arrivo non lo dico neanche, ma quanti anni avevo? 15, non so, era il mio primo trekking sul giro, abbiamo fatto il giro del Monte Rosa, e, però questo per dire che c'è un aspetto, cioè come dire, forse nel momento in cui si decide anche di affrontare una passeggiata, di andare in montagna, di fare un giro anche di più giorni, secondo me c'è cioè è importante comunque avere anche consapevolezza dei propri limiti, del proprio fisico, di insomma una serie di cose per cui si è consapevoli che ci sono anche dei pericoli e che nel caso vanno affrontati, cioè come dire, o è vita o è morte, cioè non è che, cioè, no, nel senso, senza esagerare, però così come ci sono anche, cioè anche come dicevi, no, essere attenti, se si va da soli, sai, uno inciampa, cade, ma certo, e chi te vede più? Chiaro, chiaro. Non so. No, ma infatti, allora, fatto salvo, visto che mi sembra che siamo tutti montanari presenti, del piacere straordinario che si prova, no, la bellezza di entrare in contatto con la natura, di vedere paesaggi e luoghi magari contaminati o comunque poco frequentati, no? L'emozione di dividere la cosa bella con le persone più care, no? Insomma, per stare bene, semplificando. Poi, vabbè, ovviamente ci sono motivazioni diverse da persona a persona. L'importante è che ci sia la voglia, la determinazione, il desiderio di superare qualche sacrificio, tipo svegliarsi presto, o tornare tardi, la stanchezza e così via, per dormire in tenda. Per esempio, io sono un freddoloso bestiale come Maria Gentucca e Laura sanno, però ero talmente motivato ad andare in Islanda che appunto, facendo come dicevo prima la traversata nell'interno, ho fatto 10 notti in tenda, e quindi per me super freddoloso è stata una roba impegnativa, pur avendo un bellissimo sacco a pelo con un paio di giorni che pioveva dentro la tenda, però ero talmente motivato, quindi la motivazione, la determinazione è proprio tantissima, no? Se uno ci tiene andare così. Poi è bello andare insieme, no? Appunto, questo, come dicevi tu, la solidarietà, la comunità, la vicinanza. Stai condividendo una cosa bella e, come dire, il massimo è condividere ovviamente il cibo, e una volta, prima del Covid, si condivideva anche la borraccia, non solo con il proprio marito, fidanzato, ma anche con gli amici, no? Cioè, hai sete? Sì, bevi della mia borraccia. Adesso con il Covid, insomma, si fa un po' meno, ecco. E le difficoltà, allora è chiaro che mi ricollego al fatto che tu mi hai raccontato, sì, di una tua esperienza invece difficile, no? Sì. Di un po' in cui ti sei spaventato e che ha determinato il fatto che hai smesso di arrampicare. Esatto, ci arrivo. Sono diventate gialle, normale. Scusa, cosa devo fare? No, figurati. No, dicevo. Esco un attimo. Ma aspetta, se faccio così. Ah no, niente. Cosa ho fatto? Se non parlo devi smettere. Ma poi Giovanni, sono sparite. Ah, sono ritornate. Ma tu, Giovanni, parla. Sì, tranquillamente. Sì. No, è chiaro che non bisogna essere, come dire, quando si è in situazioni dove ti succede un problema, il più esperto, il più lucido, il più calmo, è quello che deve prendere in mano la situazione, no? I problemi possono essere fisici, quindi una ferita, un malore, una distorsione, una super stanchezza, oppure psicologici, vertigini, ah, io non mi muovo più di qui, non ce la faccio, non mi muovo più, chiamate il soccorso. Oppure alle condizioni legate al meteo, no? Quindi temporale, nebbia, perdita del sentiero, frane, eccetera, no? Ecco, quindi, diciamo così, bisogna essere molto lucidi e saper affrontare le situazioni. Io ho avuto un solo incidente in montagna sulla Fermeda, che, sullo spigolo della Fermeda, che è una montagna della Val Gardena, delle Odle, e praticamente ero fermo, mi è arrivato un sasso su una mano e ho cominciato a sanguinare copiosamente. Meno male che uno dei miei due compagni di arrampicata è un dottore tuttora, quindi aveva fasce, ce l'ho così, però praticamente ho fatto tre corde doppie in discesa, quasi con una mano sola, comunque con la mano mezza sanguinante. Poi me l'ho portato al rifugio, all'ospedale di Bressano, mi hanno dato 10 punti, vabbè. Però diciamo che quella, sì, ovviamente mi sono un po' spaventato, però tutto sommato il tempo era bello, era su una mano e non in testa, non so come dire, non è stato abbastanza sotto controllo, diciamo così, no? Ecco, invece vi dico due cose da non fare, no? In cui sono trovato e dove sono cioè una a posteriori e una invece al momento. Allora, quella a posteriori, che praticamente a circa 30 anni sono partito con un amico di mio fratello, quindi un po' più grande di me, e la mia fidanzata di allora, per fare il Bernina. Quindi siamo partiti dall'Alta Valmalenco, siamo arrivati a questo rifugio Marco e Rosa, che forse qualcuno di voi conosce, insomma, che dai laghi delle dighe di Campo Moro bisogna circa salire di circa 2000 metri in due giorni, no, perché il Bernina è 4000 e le dighe sono a 2000 metri. Quindi quasi tutti coloro che lo fanno dormono il primo giorno alla Marinelli, che è un bellissimo rifugio, però hanno fatto 700 metri, non so come dire, 800 massimo. Quindi poi il giorno dopo, facciamo anche 1000, però dopo il giorno dopo devi farne altri 1000, poi in discesa. Quindi invece, su consiglio dell'albergatore dove noi alloggiavamo, abbiamo deciso di andare a dormire al Marco e Rosa, e vabbè, che è 3005 mi sembra, 3004, mi ricordo. Dopodiché il giorno dopo questa mia fidanzata era stravolta, dopo aver fatto appunto ghiacciaio di avvicinamento, ferratina di avvicinamento il giorno prima, dormito in rifugio, morale della favola, lei ha detto: io non vengo in cima, vai con questo amico. Allora, la prima parte della salita al Bernina è un panettone, quindi un ghiacciaio, ma molto facile, ci si lega ovviamente, però un po' un panettone con la pista, non dico la portata di tutti, però senza crepacci, eccetera, eccetera. Dopodiché si arriva alla fine di questo panettoncione, e cominciano alternate delle parettine di, diciamo, terzo grado, alternate a delle creste di neve, diciamo, lunghe, come dire, non so, il doppio che da qui al Barista, no? Quindi, per non perdere tempo, piuttosto che rimettersi e togliersi i ramponi così, tutti decidono di tenersi i ramponi anche nelle parettine di terzo, dove scarlighi un po' con le punte, così, poi arrivi, fai un pezzo di cresta, poi di nuovo parettine di terzo, poi di nuovo cresta fino alla cima, e vabbè, e già questo è abbastanza impegnativo, credo che sia la cosa più impegnativa che ho fatto in vita mia, penso, insieme al Dente del Gigante, vabbè. Ma arrivati alla fine di questo panettoncino di neve, l'amico di mio fratello, con cui non è che proprio ero amico, sì, ero amico, però insomma, così, mi dice: io sono stanco, non ce la faccio, torno indietro. E io sono rimasto lì come un pirla, no? Perché ho detto: cazzo, è una roba che penso da anni. Sono arrivato lì, purtroppo non ho foto, sono arrivato lì, no, soffrivo. Allora, cosa faccio, cosa non faccio, cosa non faccio, cosa non faccio? Ho fatto una scelta che dopo, a posteriori, tu sei pazzo, no? Doppiamente pazzo, perché, vabbè, lui per tornare al rifugio non aveva difficoltà, perché ho detto era una roba di neve in discesa, in tre quarti d'ora sarebbe arrivato al rifugio. A questo punto arrivavano tre giovani della mia età, erano tre, e gli ho detto: ma scusa, visto che siete in tre, non è che ci avete un posto per un quarto, nel senso che facciamo due cordate? Ho fatto il corda stop, praticamente, al posto che l'autostop, il corda stop. Allora, io pazzo a chiedere una cosa del genere. Loro, pazzi, perché non mi conoscevano, non sapevano come andavo, mai visto in vita mia, per cui io ho detto va bene, mi sono legato a uno e gli altri due così. Per cui effettivamente dal loro punto di vista andava bene, perché aumentava la rapidità, perché voi sapete che le cordate di tre sono più lente che le cordate di due, no? Però per dirvi, queste creste di neve, come immaginate, ci si è legati. Io parto, io sono qua, cioè ti do la corda, tu vai là due volte al bar, ma mentre cammino, c'ho il vuoto da tutte e due le parti, ci sono le peste, quindi devo camminare, c'ho i ramponi, c'ho la picozza, cammino molto delicato, ma se scivolo, l'altro deve buttarsi dall'altra parte, perché se no non mi tiene, cioè io vado giù 50 metri, 40 metri, quel che è la corda, no? Ecco. Cioè non puoi fare sicure in queste creste, diciamo così, ecco. Quindi questa è la prima cavolata, e vabbè. Poi però l'ho realizzata dopo, tornato a valle, felice, contento, e ho detto, sì però cazzo, forse un po' esagerato. E un'altra cosa invece con il mio amico Beppe, che Maria conosce, e anche Gentucca, e anche la Laura, siamo saliti sul Castore, che è un ghiacciaio della Punta del Rosa, e solo siccome siamo partiti prestissimo per l'insonnia, siamo arrivati in cima al Castro alle 8:30 del mattino, alle 9:15, siamo partiti alle 5:30-6 dal rifugio, per cui il buon senso sarebbe dato, bene, torna giù e vai a casa, arrivi a casa presto. Invece abbiamo detto, potremmo anche fare il Polluce, che è la cima di fianco, sì, ma di fianco per modo di dire, per cui siamo scesi dall'altra parte, a un certo punto c'era una deviazione in piedi, quindi abbiamo detto non può essere questa la discesa perché è troppo ripida, quindi siamo andati avanti ancora, dopodiché siamo trovati dopo un'ora e passa in una parete non in piedi, abbastanza inclinata ma non morbida, piena di crepacci, per cui siamo scesi praticamente sicura quasi zero, perché sì, eravamo legati, ma se uno volava tirava giù anche l'altro, attaccandoci ai lembi dei crepacci o a qualche pezzettino di ghiaietta che si alternava ai crepacci. Quindi da pazzi siamo arrivati giù nel piano del dove c'è il rifugio Mezzalama, e poi dopo siamo scesi a Saint-Jacques Champoluc. Quindi svegli alle 5 del mattino, siamo arrivati alle 5 del pomeriggio a Champoluc. Avevamo la macchina a Cressonay, quindi abbiamo fatto da Champoluc l'autostop, qualcuno si è impietosito lì, una signora addirittura ci ha visto stravolta e ha detto, ma se non riuscite a trovare l'autostop potete venire a dormire da me, cioè noi avevamo delle facce spaventose, no? Allora, autostop da Champoluc a Verres, non so come si pronuncia, che è la base della Valle di Cressonay. Vabbè, finisco brevemente. Lì nessuno ci ha tirato su, per cui abbiamo pagato un taxi spendendo un sacco di soldi. E vabbè, insomma, ecco. Devo dire, insomma, queste sono le due cavolate che ho fatto nella mia vita, che mi ricordo di più. Ecco, basta. Allora, infatti, forse possiamo cambiamo parlare anche di ricordi più belli. Ah, no, scusa, quella roccia di prima, che si vede prima. Questa? Vabbè, lasciamo perdere, no, questa? Dai. No, fai queste qua, va bene. Cosa? Ma questa? No, quella che si vede ancora prima. Ah no, quella. Sì, questa. Questa, ecco, questa è una cosa stranissima che io ho visto una sola volta nella mia vita. Allora, è un paravalanghe sopra Carcoforo, che è una valle laterale della Valsesia. Praticamente ci sono due o tre baite, e qui, non so se la foto non rende tanto, come se fosse una V di roccia alta 4-5 metri, che fa da V. E quindi è un primo paravalanghe, non so se l'ha fatto nel 700, nell'800, non lo so, però è una roba che mi ha colpito tantissimo. Vabbè, procedi. Procedo. Niente, qui c'è un po' di foto varie. No, non so se vuoi parlare di, invece, visto che abbiamo parlato di cose più tristi, sì. Invece di un ricordo bello, insomma, di un vanto che hai. Sì. Allora, vi ricordo, sono tanti naturalmente ricordi belli. Ditemi se sono troppo logorroico, eh? Interrompetemi se sono troppo logorroico. Allora, vabbè, aver dormito alla Margherita, che è la cima del Rosa, a 4.454 metri, è un'emozione particolare, nel senso che il lieve mal di testa che ho avuto, perché c'è gente che sta male e deve tornare subito a valle, pena, problemi seri. Io sono stato abbastanza bene, un lieve mal di testa, ma non troppo, non troppo. Ho anche dormito un po', però il piacere di essere in un posto a il più alto della tua vita, diciamo così, e poi di vedere queste tramonto, stellate, alba, è stata una roba che non scorderò. E poi quello del serrotore che vi ho detto prima, così. E un piccolo vanto che vi voglio dire, anche qui super brevemente, tra le tante scalate che ho fatto in Dolomiti, mi è piaciuto fare, anche perché essendo un po' appunto, avendo fatto un po' il piccolo storico, oltre che l'archivista, aver fatto, non so se qualcuno di voi conosce questa guida che si chiama Tita Piaz, che era un scalatore della metà dell'Ottocento, adesso trovo due date, scusate, no, seconda metà dell'Ottocento e prima metà del Novecento. Ecco, queste qua, sì. E praticamente questo tra l'altro è un personaggio vulcanico, detto il diavolo delle Dolomiti, irredentista da giovane, poi antifascista, quindi un personaggio veramente poliedrico. Ovviamente sono stati scritti decine di libri su di lui. E appunto ho il piacere di aver fatto tre vie sue. Allora, no, torno indietro, scusa. Una è torno indietro ancora. Questa, allora. Una che, queste sono le torri del Violet, e lo spigolo di sinistra si chiama Spigolo della Delago, che lui ha fatto nel 1899 con la cameriera del Violet, che è il rifugio sotto, no, perché naturalmente è stato un pazzo che nessuno andava con lui, e pur essendo di un grado non troppo elevato, cioè sono dei passaggi di quarto, ma lo spigolo è di terzo più, però la cosa pazzesca è che tu arrampichi con le gambe, con lo spigolo in mezzo alle gambe, e col piede destro guardi giù verso Bolzano e col piede sinistro guardi giù verso il rifugio, no? Quindi è una cosa aerea al massimo. Vabbè. Quindi quello, dopo averlo tentato varie volte con amici, una volta pioveva, una volta nevicava, l'ho fatto. Un'altra sua via è questa, che è la via Maria al Saspordoi, quindi dal passo da sopra al passo Pordoi. E la cosa curiosa, questa è lunga, è abbastanza impegnativa perché sono 400 metri di quarto più. E la cosa curiosa è che ai tempi miei, quando si arrivava in cima, dove c'è la funivia, tuttora c'è la funivia che porta sui turisti, tu scendevi e dicevi all'uomo della funivia: via Maria, allora ti faceva passare gratis, e prendevi la funivia per tornare al Passaportoi gratis. E vabbè. La terza, forse l'abbiamo già passata, però andare ancora. Queste sono sempre le torri del Violet. Questo è il rifugio Violet sotto le torri. Vai. No, torna ancora indietro. Torna indietro allora. Sì. Ecco questa. Allora, questa qua. Praticamente quella lì è la valle del Violet, dove si va su alle torri, no? Quella specie dove c'è l'intaglio. Questo a sinistra è il catinaccio. E quella specie di torre si chiama Punta Emma. Vedete che tra la Punta Emma e il catinaccio c'è una fessura, chiamata appunto Fessura Piaz. E la cosa curiosa è che lui, Tita Piaz, che io appunto ho fatto con Beppe, mio amico Beppe, e un altro, e la cosa curiosa è che appunto sei proprio sopra il rifugio, quindi quando lui la tentò una prima volta, non riuscì perché aveva delle pedule super vecchie e sgarrupate. Allora un albergatore ricco che si chiamava Cristomannos, che era al rifugio, gli regalò dei soldi, lui si comprò il giorno dopo delle pedule nuove e con quelle riuscì a vincere questa fessura, ecco. E basta, di tu Laura. No, allora volevo chiederti se commentare. Aspetta, sì, avanti. Ah sì, l'altro rifugio. Allora, ce ne sono tanti di rifugi belli, vabbè, Re Alberto bellissimo, procedi. Ecco, questo è particolare, torni dentro. Questo non è che sia bello, però mi ha molto colpito, è in... nella zona del... io pronuncio malissimo perché non so il francese. Il non so se si dice Margaret o Margareis. Siamo quindi in provincia di Cuneo, no? E lì c'è questa cosa particolare. Questo rifugio è bruciato negli anni 70, 80, non lo so, e l'hanno ricostruito. E l'ha ricostruito questo architetto di Cuneo che si chiama... Gianmario Bertarione, che poi ho scoperto che ne ha fatti altri così. La cosa curiosa, non so se si capisce da questo o dall'altro, ecco, che è fatto come fosse di tre corpi collegati, ovviamente. Il corpo centrale è di vetro o plastica, penso vetro. E quindi la cosa, non solo un grande pregio per la luminosità, ma la cosa più capita sempre quando si arriva in un rifugio, no? Anche se non diluvia a catinelle, è che c'hai sempre tutte le magliette inzuppate, se poi piove, la giacca a vetro, gli scarponi, i calzettoni. Lì, in questo corpo di vetro, ci sono delle rastrelliere, questo è un rifugio grande, no? C'è una capacità anche di 100 persone, quindi la gente mette le sue robe, gli scarponi da asciugare, metti che tu fai un trekking da rifugio a rifugio, cavolo, ti sono bagnate gli scarponi perché sei arrivato la sera prima, il giorno dopo sono asciutti, perché lì c'è questa cosa che il sole fa molto da asciugatoio, diciamo così. E quindi mi ha incuriosito molto questo rifugio, anche se non è poi bello. Ah, l'ultima storia dei rifugi, poi passiamo a un'altra domanda. Dove è arrivata l'Inas? Scusa? Cos'è? Bravissima. Allora, ci siamo stati con Maria una volta a mangiare, dopo una ferrata, e sono arrivati in As. E vabbè. Non sono a Milano, sono arrivati in As e per controllare che avessero quelle norme di igiene. Vabbè. Questo praticamente è... Allora, immaginatevi il rifugio Re Alberto sotto davanti alle torri. Questo è mezz'ora più in alto, più lontano rispetto alle torri. Quindi è un balcone straordinario e bellissimo, no? Allora, la storia di questo rifugio, anche questa la trovate sui social, ma ve la riassumo proprio al massimo della brevità, è così. Che questo rifugio, non so se per Inas o per non Inas, è stato chiuso. Tra l'altro, in questo posto si arriva da una ferrata molto, non difficile, ma molto bella, la ferrata del Santre, che deriva dal rifugio omonimo, il nome, ed è la base per fare la via normale del Catinaccio, alcune vie del Catinaccio, parte opposta alla Valle del Violet, diciamo. E cosa volevo dire? Ma questo è quello che è successo. Ecco, quello che è successo è questo. C'è una foto insieme anche, no? Ecco, praticamente, allora, due giovani montanari, ventenni o poco più che ventenni, dopo che il rifugio piccolo era stato chiuso per X anni, cominciano a postare sui social delle cose dicendo: ah, noi vorremmo far riaprire il rifugio Santner, e di qui e di là e di su e di giù. Non è che hanno fatto un crowdfunding, però insomma, no, come dire, l'hanno messa giù bene, il ritorno dei giovani, lasciamo la montagna, scusate, lasciamo la pianura, ci dedichiamo alla montagna, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E vabbè. Dopodiché si è scoperto che il lui di questi due fidanzati è figlio di questo che si chiama Peratoner, che è il più grande costruttore di funivie dell'Alto Adige, no? Scusate che cerco la pagina, qua. E quindi ha avuto, ovviamente, come diceva Beatrice nella scorsa puntata, no? Il nostro immaginario, noi pensiamo che in Alto Adige non ci siano corruzioni rispetto al Tangentopoli, Milano, eccetera. Non è vero, perché l'abbiamo visto con le Olimpiadi di Milano Cortina, ben descritti da Beatrice. E qui allora, questo qui, ingabolato, ha avuto non solo la possibilità di comprare un'area demaniale a un prezzo irrisorio, costruirci un rifugio che sembra un'astronave, che è 8 volte più grande come volumetria del vecchio rifugio Santner. Tenete conto che siamo in un parco nazionale, Sciliar Catinaccio, Dolomiti ovviamente nel patrimonio dell'UNESCO, eccetera eccetera. E quindi questo qua appunto ha costruito questo rifugio, dove tipo, non so, un tè costa 10 euro e naturalmente non puoi mangiarti le tue cose, ti guardano malissimo se tiri fuori un tuo pezzetto di panino o di biscotto e così via, ecco. E basta. Ma forse c'era un bivacco, adesso lo ritrovo. Sì, c'era, scusate, questo bivacco. Era prima il bivacco rosso. Sì. Sì. Ah sì, torno indietro, bravo. Ecco, qua. Questa no. Dopo parliamo dei rimpianti. Dimmi se sto... Vai. No, no, non rimpianti abbiamo... Rimpianti e rifugi. Come? Non esiste allora, sforamento. Questo è un bivacco. Allora, non so se conoscete il campanile di Valmontanaia, che è questo torrione che si è visto prima, molto ardito. E in particolare, cioè immaginatevi che da un prato, torno indietro al bivacco, cioè il bivacco è qui, no? 100 metri dal bivacco, nel prato, parte questo monolite, no? Che è la montagna del famoso pazzo Corona, no? Quello che va da Carta Bianca, no? Che l'avrà salito 100 volte, così. Ed intorno c'è una valle, si vede bellissimo che è una valle glaciale, no? Qui tra l'altro ci sono anche delle polemiche perché un certo Severino Casara o Casarà dice di averlo fatto dalla via più difficile, ma non si sa se la faccia. Polemiche alpinistiche ce ne sono tante, come sapete, non solo quelle sul K2, ma comunque è uno dei posti magici, insomma, molto, molto bello. Poi c'era, forse avevamo saltato prima, vabbè, non importa. Niente, un altro rifugio bellissimo, anche questo sono stato con Maria, zia di Laura, è il rifugio Tissi, che è un rifugio davanti al Civetta. Ecco, questo è un bivacco, si chiama bivacco Bedin, anche lui è di fronte al Civetta, anche se purtroppo il tempo non era bellissimo. Ops, no, indietro. Ecco, questo, allora praticamente, questo è il rifugio Tissi, no? Che non è proprio una struttura bellissima, cioè, però ha due pregi, davanti che è il Civetta, ed è talmente vicino, c'è una vetrata, che alla sera al tramonto il Civetta diventa giallo, ti ricordi Maria? E vedi la gente che dorme. Sì, no, esatto, c'erano tre che stavano facendo una via, hanno tirato fuori una tendina, a un certo punto abbiamo visto un puntino blu sulla parete gialla, un puntino blu, ma che cazzo è? Poi col cannocchiala che abbiamo capito che era una specie di tendina addossata a un terrazzino. Allora, quindi davanti c'è il Civetta, che è una montagna straordinaria, vabbè. E dietro il rifugio, quel pratino che sale dietro il rifugio, tu cammini 5 minuti, ti affacci al burrone e vedi sotto il lago di Alleghe, che è 1200 metri sotto, ti affacci e vedi io. Vabbè, questo è quindi un posto molto, molto particolare che vi consiglio. Ecco, del Santre l'abbiamo già parlato. No, allora forse... il Gunther Messner, adesso non fare la bulletta, la zia di Laura, che è anche la mia ex moglie, mi ha voluto prendere in castagna, nel senso che in una gita ferrata di 8 ore io a un certo punto ero cotto, lo confesso. Anello, sì, nella Val di Funes, altro gioiellino dove vi consiglio di andare, c'è questa escursione dedicata appunto al fratello di Messner, che è morto sulle torri del... cioè, Messner ha due fratelli morti, no? Uno nel Nagyapabat insieme a lui, e uno sulle torri del Violet, non so se avete visto prima, tra la seconda, cioè tra quella che ho nominato, la del lago, e quella centrale c'è un terrazzino grande come questo spazio dove la gente staziona in attesa, in coda di fare la corda doppia per tornare giù, e lui non era legato, è venuto un fulmine, tempo non era neanche, no, è venuto un fulmine, spostamento d'aria e lui è caduto. Allora il Gunther Reinhold Messner è dedicato al fratello questo sentiero, c'è una ferratina abbastanza facile, è molto bello, anche quello assolutamente fuori dal mondo, è molto consigliabile, che si prende nella strada che va da Santa Maddalena di Funes, che è l'ultimo paesino della Val di Funes, andando verso il Passo delle Erbe, cioè verso la Val Badia, diciamo così. Ecco. Allora, io forse ti chiederei, sì, come ormai chiedo a tutti i miei ospiti, i nostri ospiti, scusa, e, appunto, dopo averci raccontato un po' tutte queste esperienze, qual è il motivo per cui tu vai in montagna e se magari questa cosa è cambiata nel tempo, insomma, ha avuto significati diversi per te crescendo? Ma come un po' accennato prima, cioè perché quando c'è una bella giornata fremi e dici cavolo, sono a Milano e non sono esatto Frigge? Perché niente, l'attrazione di posti belli, di paesaggi belli, di, cioè te lo chiedo, fa bene al fisico e fa bene all'umore e fa bene all'anima, diciamo, no, così, certo, no? Cioè, te lo chiedo senza nel senso, senza che io sia un credente, anzi non sono credente, però immagino che sia per i credenti ma anche per i non credenti la montagna abbia un qualcosa di comunque di spirituale, di intimo e di, no? Perché non hai fatto, per dire, la scelta di andare a vivere in montagna ma fai la scelta di vivere in città e di vivere la montagna come appunto forse un luogo di evasione o comunque appunto di ricerca di qualcos'altro in quel senso? Beh, è una bella domanda questa. Ma diciamo che non ci ho mai pensato seriamente, pur stando d'estate almeno un mese in montagna e spesso nei weekend, cioè nei weekend, spesso settimanalmente o spesso nei ponti lunghi e così via. Forse perché sono anche profondamente un cittadino, essendo nato a Milano o comunque. No, lo dico perché è un po' un tema che diciamo, poi è chiaro che forse è una scelta, forse è una scelta che uno fa, non dico sempre, ma in prevalenza si fa a un'età più giovane, diciamo così, no? Dove comunque, che ne so, uno dice insegno, trovo il paesino di fianco dove posso andare a insegnare, oppure, che ne so, faccio un lavoro al computer per cui posso vivere anche in un paesino purché ci sia la rete, no? Mm-hmm. Con l'età che avanza e gli acciacchi fisici pure che avanzano, il fatto di avere comunque una città, degli ospedali vicini o raggiungibili, sono forse una cosa per quelli della mia età che fa un po' da freno, no? Per fare una scelta così. Poi dopodiché comunque senti delle persone che vanno anche a 50, 60, 70 anni a vivere in montagna. Certo. E allora chiuderei ritornando sul tema, perché diciamo questo nostro ciclo di incontri prevede poi il passeggio sociale e la lettura di un libro, come abbiamo appunto un gruppo di lettura e ogni mese leggiamo un libro e poi ne parliamo durante il passeggio sociale, quindi appunto quando ho chiesto a Giovanni cosa pensava anche della letteratura della montagna, se aveva dei testi da consigliarci, mi ha indicato tre testi. Questo nello specifico sarà il nostro prossimo libro di diciamo di questo mese. No, lo leggiamo e basta, ma potete comprarne delle copie qui anche in Exalge se volete. Li abbiamo. E provare a contattarlo. Sì, ma io sono molto amica. Quindi possibile incontro sul libro di lettura. No, allora, non so se tu l'hai letto il libro. No, allora, una brevissima premessa. Ci stiamo col tempo, sì. Una brevissima premessa è questa. Allora, se andate in libreria, alla Eupli, piuttosto che alla libreria della montagna, in Viale Montenero, eccetera, ovviamente trovate centinaia, se non migliaia di libri, no? Mi viene da dire questo sulla letteratura di montagna senza fare semplificando e senza fare il gradasso. Allora, le guide cartacee sono sempre utili, perché è vero che i cellulari, internet, i vari programmi, no, Komoot, eccetera, eccetera, aiutano, però insomma, portarsi dietro una cartina o avendo letto prima una relazione è sempre, secondo me, importante. I libri di avventure, di storia di scalate, di salite himalayane, eccetera, eccetera, letti tanti, alcuni belli, alcuni meno, vi confesso che mi hanno un po' stufato, non perché siano ripetitivi, però sono un po', sono salito di qui, sono salito di là, sono salito di giù, la valanga di qua, la valanga di là, cioè se uno non li ha letti, ce ne sono di bellissimi, no? Herman Ball piuttosto che altri, però dopo che ne hai letti 20 anche basta, no? Poi ci sono dei, ripeto, schematizzando, no? Ci sono molti libri sulla filosofia della montagna, sul rapporto uomo-montagna, sull'ambiente, sulle emozioni, questi ce ne sono belli, adesso non me ne viene in mente nessuno, ma ce ne sono alcuni carini. Recentemente mi è capitato di leggere dei gialli ambientati in montagna, no, il capofila è questo Enrico Camanni, piemontese, ne ha scritti alcuni belli, molto belli, e non so se me l'hanno regalato a Natale, non mi ricordo più, forse a Natale o il compleanno, tale Glyn Carr, che è un inglese, che ha scritto proprio dei gialli ambientati in montagna. Sono un po' semplici, perché sono, adesso non vorrei dire una cavolata, non mi ricordo se degli anni 50 o forse anche prima, io ho letto Sangue sul Monte Bianco, vabbè. Però sono, si leggono gradevolmente, non so come dire, no? Un po' semplici la struttura, però il fatto che siano ambientati, per esempio questo qui, Sangue sul Monte Bianco, ovviamente introducendo il giallo, parla molto, non so, di Chamonix piuttosto che dei tentativi per salire sul bianco, della storia dei due primi salitori, Balmat Pacardi, Horace Benedict de Saussure, che è il terzo salitore, ma con tutto un apparato di scienziati, eccetera, eccetera. Ecco, quindi carino. I libri di fotografie, belli ma visti una volta, finiscono in libreria, quindi tutti i miei amici sanno, non regalate più libri di fotografie, perché ripeto, ti guardi una volta, ah, che bello l'Amel, che bello l'Himalaya di qui, l'Himalaya di là, però poi rimangono. Invece secondo me sono belli, e ne ho tanti, i libri monotematici, cioè su un gruppo montuoso, non so, il Cervino, il Bianco, quindi c'è anche storia della montagna, storia delle scalate, storia dell'ambiente, così via. E la rivista Meridiani Montagne, che sicuramente conoscete, è un po' figlia di questa idea della monotematicità, no? Cioè Meridiani Montagne è una rivista che ha soppiantato e surclassato tutte le precedenti riviste che una volta esistevano in Italia, e ha questo pregio di essere monotematica, quindi un gruppo montuoso o una montagna famosa, ti regala la cartina, e che non è male, e poi c'è la parte dedicata all'arrampicata, la parte dedicata al costume, la parte dedicata ai rifugi, la parte dedicata alle escursioni, cioè quindi è una rivista che anche uno non super esperto legge volentieri. No, non so se vi ricordate, Enrico si conoscerà sicuramente la rivista Alp, che usciva 30-40 anni fa, che anche lei a un certo punto ha scelto di fare dei numeri monotematici, quindi il Gran Sasso, il Bernina, eccetera, eccetera, ma prima non è che fosse brutta, però il 90% degli articoli erano sull'Himalaya. Allora lui dice, sì, bello vedere che hanno scalato il Nanga Parbat, hanno scalato l'Everest, però anche lì una volta che l'hai letto, non so come dire, no? E quindi di fatto ha perso sempre più così. Allora, venendo invece, allora, contro zona dell'alpinismo, è un libro, secondo me, carino, perché è un po', appunto, non si innesta un po' in una storia dell'alpinismo molto tradizionale, no? Naturalmente va letto e non vi voglio spoilerare, ma la tesi di fondo di questo libro, in breve, è che, Maria lo saprà se è stata la presentazione, che in sostanza quasi tutte le storie dell'alpinismo, erano rete 6 o 7, ma ce ne saranno 100 di storie dell'alpinismo, sostengono che la maggior parte, se non la totalità, delle prime ascensioni e scalate nelle Alpi, ma non solo, parliamo delle Alpi, sono state fatte tutte appunto tra la fine del Settecento e la fine dell'Ottocento, le prime, no? Poi con mille ripetizioni, eccetera, eccetera, ripetizione invernale, la prima donna, la prima... Mentre lui dice no, non è vero. Nel senso che lui dice io non ho testimonianze scritte confortanti questa mia tesi, ma lui dice, andando a pescare un archivio di là, una relazione di là, un appuntino di là, un libretto di là, eccetera, eccetera, lui dice sostanzialmente, appunto, anche in assenza di testimonianze certe, rovescia questa narrazione che vi dicevo prima, e sostiene invece che contrabbandieri, cacciatori, cercatori di minerali, viaggiatori, mercanti, curiosi, no? Cioè, preti, cioè persone che abitavano le nostre Alpi e per i motivi più disparati, anche forse il piacere andare in montagna di scoprire qualcosa, sono saliti ben prima, no? Per cui Scusate, in questa storia dell'alpinismo il primo capitolo è sempre dedicato alla famosa salita di Petrarca al Mont Ventoux 1300 e rotti, no? Che viene presa un po' come la prima ascensione della storia dell'alpinismo. Peraltro il Mont Ventoux bellissimo, ma è un panettone, no? Che potrebbe andarci anche un bambino di 8 anni. Comunque, a parte questo, oggi vabbè, ci sono le strade che portano in cima, le strade asfaltate, ma quindi, e poi da lì, dal Mont Ventoux in avanti, fino alle prime scalate del, diciamo, primi 700, no? Poi la attraversata delle Alpi, Napoleone, no? Le famose stampe in cui si vede che attraversano i ghiacciai con la scala buttata giù, le donne con le gonne, no? Ecco. Però invece lui sostiene queste cose, poi dopo di che uno può dire, ah, sono cavolate, non ci credo, però lui la argomenta bene, fa dei capitoli tematici su, anche per gruppo alpino, diciamo così, no? Perché parla molto, ovviamente parla molto del bianco. Poi fa anche un discorso quasi di classe, no? Nel senso che lui dice, a proposito del bianco, no? Dice che appunto i due primi salitori, Balmat e Packard, lo sapete, uno dei due era un contadino, guida, un po' uno sfigato così, pieno di figli che quindi faceva questo lavoro per guadagnare, l'altro è un dottore rinomato, conosciuto, eccetera, eccetera, quindi poi nella vulgata del bianco, no? Nelle guide che vengono via pubblicate, il primo viene un po' dimenticato e siccome questo Horace Benedict de Saussure, che era un ginevrino, filosofo, studioso, mercante, viaggiatore, poliglotta, mineralogo e così via, eccetera, eccetera, pieno di soldi, che quindi organizzò la seconda, aveva tentato anche lui prima di questi due, ma non c'era riuscito, ovviamente appoggiandosi alle guide locali, sale sul bianco, non mi ricordo se come seconda salita o terza salita, mettiamo 10 anni dopo, quindi la prima salita è del 1786, quindi lui sale secondo me nel 94, o nel 93, non mi ricordo più, però lui ha la capacità e la testa di scrivere una guida, un racconto, eccetera, eccetera, e quindi ovviamente poi nei decenni successivi dell'altro salitore si parla sempre meno. Però, e qui veniamo alla foto, quella prima ancora, ecco, questa è la piazza di Chamonix, dove i due, Balmat e Packard, indicano col dito la cima del bianco, e poi, vai, questa è la casa delle guide, dove ci sono vari cose così, e mi è venuto in mente di metterle, perché poteva essere carino. Vediamo l'altro libro, e poi mi fermo. Allora, questi qui in realtà sono due libri, li conoscete? Qualcuno conosce? Tu li conosci? Enrico sicuramente, anche tu. Allora, sono due libri da leggere insieme, no? Allora, questo qui, Felice Benuzzi, Fuga sul Kenya, è un libro pubblicato nel 2012, però ambientato nel 43. Cioè, immaginatevi, campo di, non chiamiamolo di sterminio, forse sterminio esagerato, insomma, campo di detenzione nel Nord Africa, gli italiani ovviamente per il cambio di alleanze dopo l'8 settembre, eccetera, eccetera, quindi sono reclusi in questo campo, e uno di questi è questo Felice Benuzzi, famoso alpinista, comunque appassionato di alpinista, eccetera, eccetera. E, insomma, ripeto, non sono torturati come nei campi nazisti, però la vita è dura, no? Allora, comunque, si danno da fare, c'è il laboratorio che ne so, di falegnameria, c'è quello che costruisce una cosa, costruisce un'altra, eccetera. Allora, anche qui vi riassumo super, super brevissimamente, seleziona altri due compagni, in base soprattutto al fisico, no? E con poche relazioni, una cartolina, un'etichetta di una latta, non so se di piselli o di fagioli, che rappresentava il Monte Kenya, che era, mettiamo, 80 km di distanza dal campo. Allora, in pochi mesi si costruiscono, forgiando dei rudimentali ramponi, delle rudimentali corde, delle rudimentali attrezzature, e evadono dal campo, scoprono tutti gli orari, no? Si può scavare sotto la rete, accumulano del cibo, mangiando meno, insomma, per farla breve. Attraversano questo territorio fatto di foreste, animali feroci, tribù sconosciute, quindi è un libro molto avventuroso, è la scrittura degli anni 40, quindi molto un po', no? Ridondante, però fa piacere comunque leggerlo, e riescono a salire in cima al Kenya, a un'anticima, diciamo così, no? Non proprio la cima vera e propria. Allora, questi altri due scrittori che forse conoscete, che si chiamano, questo gruppo di scrittori si chiama Wu Ming, che ha scritto molti libri, secondo me molto affascinanti, perché uniscono verità e verosimiglianza e invece invenzione, insieme a Roberto Santachiara, quindi è Wu Ming 1, insieme a Roberto Santachiara, hanno scritto questo libro, si chiama Point Le Nana, che è uscito nel 2013, e allora lui, i due autori, partendo dal libro di Benuzzi, ricostruiscono tutta la storia e addirittura vanno là, no? E quindi, come dire, cercano di immedesimarsi in parte, non è che fanno tutti gli 80 chilometri, ma in parte percorrono il territorio che lui aveva, che loro due, che lui e i suoi due soci, scusate, avevano attraversato, e anche quindi trovano dei riferimenti geografici reali, quindi veri, quindi è vero che quelli là sono andati, tanto che loro addirittura portarono il tricolore in cima. Ho dimenticato, poi loro scendono, tornano nel campo, non è che vadano, tornano nel campo, il comandante inglese gli dà qualche punizione, però dice, come dire, cavoli, anche perché qualche giorno dopo, penso con dei cannocchiali potentissimi, si riesce a vedere la bandiera italiana in cima, e quindi gli inglesi, che probabilmente erano lì, che puntavano la cima o comunque varie spedizioni eccetera eccetera, diffondono sui loro giornali, no? Questa salita, e quindi sai, il comandante del campo gli dà, che ne so, 10 giorni di reclusione o 10 giorni di pane e acqua, però insomma non può, ecco, basta. Quindi questo libro, tornando a Point Le Nana, è molto gradevole perché mescola un misto di, partendo dalla storia di Benuzzi, mette insieme un po' di storia dell'alpinismo, un po' di storia per cui parla, insomma, fa dei voli pindarici, parla di Cassin piuttosto che di quello, piuttosto che quell'altro. Quindi è un libro, a mio parere, molto molto affascinante. Grazie mille. Ecco. Allora, io ho finito le mie domande. Grazie. Però se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare domande deve venire qui, perché ok, Giovanni vi porta il microfono. Penso che mi sentano tutti. Vai. No, ma è per registrarla. Allora, intanto che parlavi mi è venuto in mente prima una trovata politica, che erano le convergenze parallele. Poi ci ho pensato bene e ho pensato che invece sono le parallele divergenti, che è diverso, perché noi sicuramente condividiamo quasi l'età e la passione, però la storia, la nostra storia, diciamo, alpinistica è completamente diversa. Allora, potremmo stare qua, immagino, a parlare moltissimo, ma non voglio rubare il tempo agli altri per farti delle domande. Io ti chiederei, chiaramente non voglio che tu mi risponda, no, perché sarebbe troppo lungo, mi piacerebbe chiederti per ognuna delle fotografie di arrampicata per cui non si individua bene la cima, perché insomma le torri del Violet, sì, le Odle, sì, queste cose qui, il dente del gigante, quelle le ho viste subito, ma ci sono delle cose invece dove si vede un diedro, sì, e allora mi piacerebbe sapere qual è quel diedro lì, certo. Ma non possiamo monopolizzare il microfono. E invece nelle... Per esempio, scusa, ti interrompo. Le quattro in cui si vedeva, sì, la parete marrone, diciamo, mm-hmm, quello è lo spigolo del pollice sulle cinque dita, sì, che stanno tra Sassolone, sì, ho capito, mm-hmm, che è una via non difficile, ma anche quella molto aerea, sì, esposta. Avete presente le cinque dita col pollice a sinistra, molto... Lo conosce anche Giovanni, anche se non lo sa, anche se non lo sa, se no, se no... E lo spigolo Piazza, ma più lo spigolo Piazza, sì, lo spigolo Piazza c'è da cagarsi addosso, ecco, bravo, anche se è facile. Sì, perché c'è la prima paretina che è quarto, però abbastanza appoggiata. Quando vai sullo spigolo veramente... Sì, no, perché quella valle sono 300, sì, no, ma a parte quello, dal pianoro del rifugio ci saranno 300 metri di Torre del Violet, sull'altro versante ci sono 600 metri di... C'è una foto bella, dopo la ecco, vediamo. Questa... Allora, questa è sul pollice. Qua siamo ok, sul pollice. E quel dietro lì che cos'è? Dietro fessura. Aspetta, quello... questo è sempre pollice. Sì. No, queste due? Sì, sì, sempre pollice. Ok, va bene. Poi c'era un'altra dove c'era il mio amico Beppe su un dietro, ma... Ah, scusa, torno indietro un attimo. Sì, questa qua non... Puoi anche non commentarla perché... Non ci sono stato, per cui... Quella di prima... È un po' lento perché è queste sono... Qualcuno dice che somigliano a tre cime di Lavaredo. No, beh, questo è... Perché è vero, sono le torri di Pine. Che sono nella Patagonia cilena. Quindi, se non siete stati... Mandateci. No, ma adesso mi attacco proprio a quello che dici tu, che stai dicendo tu. Andateci. A parte il fatto che i miei... I miei compagni di cordata ce n'è uno qua. No, ma io non sono andato in cima. No, capisco, però tu hai parlato dei compagni di cordata. Io ho martirizzato Giovanni e Ludovica e pochi altri che sono venuti con me a fare delle vie così quando ancora facevo da primo. Con lui che aveva 10, 11, 12 anni, quindi via abbastanza facile. Ma proprio quando hai detto andateci e poi quando hai detto che tutti gli anni vai a fare un trekking più o meno lungo, e a me è venuta in mente una cosa, che quando io vedo, quando sono con mia moglie e vedo qualcuno... in bicicletta ma anche in montagna, quelle rare volte che sono con Chiara in montagna per fare delle cose molto semplici, vedo qualcuno con il casco, la corda, i moschettoni che scende da una via oppure che va all'attacco, le dico guarda Chiara, un vedovo. Guarda Chiara? Un vedovo. Un vedovo perché? Perché io non posso, non ho questa libertà, allora non prendertela. Però mentre parlavi mi sono chiesto, ma anche perché ho visto la tua mano sinistra e non ho visto l'anello, e ho detto no, ma lui allora non è sposato, lui è più libero di... Sono sposato anche se non ho Sei sposato ma che non hai l'anello. Allora sei fortunato, la domanda è questa, sei fortunato, hai una persona che accetta che tu vada in montagna, che tu vada via per parecchio tempo e che magari ti accompagna anche. Posso dire che mia moglie, con mia moglie vado in montagna facendo delle cose facili, lei non è allenata, lavora ancora, non è in pensione come me, e quindi facciamo delle cose da 400-500 metri ogni tanto ed estate. E... Però appunto non però, ha, però non viene non ha, con te. Però viene con me ogni tanto. Non pensa. Dopodiché invece le gite settimanali con gli arzilli pensionati, siccome non sono mai meno di 900-1000 metri, non viene anche perché lei lavora, e i trekking itineranti, pur appoggiati dallo zaino trasportato, non viene perché non ha la resistenza di fare sette giorni di fila di camminata, non so come dire. E quindi per due settimane all'anno la abbandono. Diciamo così. Non ti dico invece qual è la mia, la mia esperienza, perché... No, ecco, una cosa che volevo aggiungere è che, per esempio, molti amici che ho conosciuto negli anni sono andati... spesso arrampicare con la guida e quindi facendo cose più impegnative e certamente di maggiore magari soddisfazione, no? Però noi un po' per autostima, un po' per quattrini che mancavano, non mi viene in mente un amico di mio fratello che andava a Funghi, si parla di 50 anni fa, e vendeva poi i porcini al fruttivendolo del paesino e coi soldi si pagava la guida, no? Ecco. Quindi io sono sempre andato con amici, mai con la guida. E vabbè. E poi, una cosa che volevo aggiungere ancora, ho perso il filo, Sì, no, appunto, quindi basta, per solito, niente, fate altre domande. Ah, tra l'altro, scusa, questi trekking itineranti, come hai trasportato, poi possono essere anche, ovviamente vado con dei gruppi organizzati, perché hanno difetto di essere gruppi organizzati, però il pregio che ti sei comunque supportato, c'è una guida, c'è un accompagnatore che l'ha già fatto, eccetera, eccetera, no? Altri vengono definiti a stella, cioè tu sei fisso in un paesino, ogni giorno fai una camminata anche lunga, però poi torni lì. Ecco, per esempio, un altro che vi consiglio, forse tra i più belli che ho fatto in vita mia, a parte l'Islanda e la Patagonia, questo Trilo de Pescadores, lo conoscete? Che è in Portogallo, fate conto, 300 metri, basta? Dobbiamo finire? No, lì. 300 metri sotto Lisbona, quindi aereo a Lisbona, poi si prende un pulmino, un treno, quel che è, e si cammina verso sud, sono, se non sbaglio, 7-8 tappe, tra l'altro si interseca a un certo punto con un altro che viene chiamato Ruta Vicentina, che quello invece sono 20 tappe, però la Ruta Vicentina va un po' nell'interno, questo è tutto sul mare, no? Quindi montagna zero. Però la cosa assolutamente straordinaria, se mai lo farete, è da fare ovviamente in primavera, aprile, maggio, così, per due cose eccezionali. Purtroppo non ho le foto perché erano ancora sul cellulare, non le ho mai scaricate, vabbè. Cioè una che si alternano scogliere di vari colori, quindi o bianche, di gesso, o nere, vulcaniche e così via, no? Vabbè. Su queste scogliere, nella stagione appunto aprile-maggio, ci sono le cicogne che nidificano. Quindi ogni balza della scogliera, se è grande, 2 metri quadrati, c'è una cicogna che fa il nido, e quindi ci sono o le uova, tu ci vai vicino a 50 metri, quindi ho col cannocchiale, ma anche a occhio nudo le vedi, anche a 30 metri. O ci sono le uova, ci sono i piccoli, con i gabbiani che ronzano intorno. Allora, uno dei due coniugi cicogna, uno va a cercare da mangiare e l'altro sta lì, perché sennò i gabbiani si pappano o i piccoli o le uova. E comunque un altro è il deserto della Giordania. Ah, bravissima, sì. E questa è una cosa straordinaria. L'altra cosa straordinaria è che siccome si cammina non sempre sulla spiaggia, ma anche 50-100 metri sopra la spiaggia, il vento ha portato la sabbia rossiccia, proprio il color sabbia del deserto, diciamo così, e quindi tu cammini questo sentiero e in mezzo a queste distese di sabbia arancione, color deserto, diciamo così, ci sono delle fioriture pazzesche di piante grasse che però in quel momento danno fiori, quindi fiori di tutti i colori, gialli, verdi, rossi, viola, cioè veramente cosa molto bella. Ecco. Se non ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti. Sì, e io suggerisco allora, intanto ovviamente di leggere Controstrada dell'alpinismo, però visto che ha citato anche Point Lenana, ci sono molto affezionato, leggete anche quello, assolutamente. È ne fantastico, parleremo. Come diceva Gio, anche dal punto di vista storico, aneddotico, sull'alpinismo, sulla storia Kenya, Masai, delle tribù, il colonialismo, è veramente eccezionale, secondo me. E scritto anche molto bene. Ma contro storia dell'alpinismo, ovviamente, perché ne parleremo poi a dicembre, quando saremo a mangiare con le gambe sotto il tavolo a Cascina Bagaggera o Bagaggera, che vogliate voi. E lì c'è questo posto strano che si sono le piramidi di Montevecchia, che non è proprio alpinistico come territorio, però è particolare, e faremo una passeggiata nel bosco sottostante, in cui ci sono un paio di toponimi strani come albero stregato, sorgenti petrificanti, il bosco delle streghe, cose del genere, e queste piramidi che secondo le teorie del complotto sono di fattezze artificiali, invece sono molto probabilmente solo delle collinone a forma triangolare. E invece settimana prossima, quasi, o no, a fine mese, insomma, andremo sul Monte di Tremezzo, anche lì citando le difficoltà inesistenti del weekend, non arriveremo neanche a 400 metri, faremo un centinaio per finire con le gambe sotto al tavolo. E in quell'occasione invece parleremo di Architettura e Democrazia, esatto. Altro libro che consigliamo vivamente, in cui si parla di paesaggio, e gestione del territorio e anche politica. Invece a dicembre incontreremo Stefano Fregonese, che è un altro appassionato di montagna e ha scritto anche dei testi, dei libri sulla montagna. Stiamo ancora decidendo insieme che taglio dare all'incontro, ma se restate tuned sui canali di Exalge scoprirete poi qual è quale sarà il tema. In ogni caso, appunto, è un altro appassionato alpinista che racconterà. Il 14 sono di dicembre, tutte domeniche. Che sono tutte sempre domeniche, in questo orario di merenda, speriamo con tempi migliori, diciamo, non pioggia a catinelle. Sarà un tema filosofico, sì, o no? Comunque sì. Devo ancora un po' capire. Va bene. Dai, forse ha cambiato idea, non faccio spoiler. Quindi niente, grazie a tutte e tutti di essere venuti. Grazie, Gio. E ci vediamo presto.